In realtà, venendo qua, mi hanno fatto sorgere dei dubbi, perché c'è chi sostiene che invece sia il 22 dicembre. Eppure io mi ricordavo il 21, Google dice il 21 e Google si sa non sbaglia mai, e quindi insomma mi hanno fatto venire le paranoie. Allora sono andata a documentarmi sull'internet e ho scoperto che in realtà sappiate, il solstizio d'inverno, sì, lo so che magari lo sapevate già tutti, io sono l'unica ignorante che se l'era completamente dimenticato, ma il solstizio d'inverno non è sempre nella stessa data, ecco. È o il 21 o il 22 a seconda degli anni, perché essendo il momento in cui il sole raggiunge il punto di il solstizio è o il momento in cui raggiunge il punto di declinazione massimo, quello minima, e non è che tutte le volte lo raggiunge nello stesso momento, è che pretendete. Quest'anno effettivamente è il 21 dicembre, quindi oggi, ed è stato alle 10:44 del mattino, per essere sicuri. Quindi adesso che sappiamo tutte queste cose, che abbiamo eliminato tutte le vari scrupoli, tutti i vari dubbi, insomma siamo a posto con la coscienza e scientificamente sicuri, possiamo andare avanti e continuare a raccontare dell'inverno. Se vi ricordate, certamente non potete averlo dimenticato, Slick Chick ha già dedicato una puntata qualche tempo fa a un'altra stagione, ovvero all'autunno. È stata una puntata, a dire un po' di tutti quelli che l'hanno ascoltata, tristissima. E io, per non deludervi, continuerò in questa fase di depressione, ansia e freddezza invernale, perché d'altra parte l'autunno ci ha portato verso l'inverno, che non è una stagione allegrotta, o meglio, boh, non è neanche detto. C'è chi la vede come il meraviglioso periodo dell'anno in cui si fanno i regali, c'è Babbo Natale, le renne, il cappone morto, eccetera, eccetera. Ecco, io non la vedo tanto così, la vedo più come una stagione bellissima da un punto di vista naturale, ma insomma effettivamente fredda e triste e faticosa, anche perché vivendo in campagna, insomma, l'inverno è qualcosa che costa fatica per sopravvivere. Ecco. Detto questo, dette le mie importantissime considerazioni filosofiche di vita, andiamo avanti. Quello che avete sentito adesso, dopo la sigla, era l'orchestra di Benny Goodman e insieme a Peggy Lee, un pezzo del 1941, Winter Weather, come si capiva dal ritornello allegrotto che cantava Peggy Lee. E andiamo avanti, e dobbiamo andare avanti passando a Paolo Conte, perché Paolo Conte, secondo me, ha fatto un bellissimo pezzo sull'inverno che non può essere ignorato, anche se, insomma, Paolo Conte non è proprio un personaggino da autoproduzione DIY, ma chi se ne frega, facciamolo sentire, perché comunque ha fatto delle gran belle cose. Paolo Conte, appunto, ha scritto questo pezzo che si chiama La donna d'inverno. Ve lo ricorderete, è un pezzo abbastanza famoso, obiettivamente, tratto dall'album Un gelato al limone del 1979. C'è una cosa che vi volevo raccontare di Paolo Conte che non c'entra precisamente con il brano che vi faccio sentire, ma è un'intervista che ho ritrovato in rete, un piccolo pezzettino di un'intervista, dove dice, racconta un pezzetto della sua vita e secondo me molto divertente. Paolo Conte dice così: Mussolini, quando era piccolo, si intende Paolo Conte, sta raccontando di quando era bambino, Mussolini aveva proibito la diffusione della musica americana e del jazz. Però era difficile impedire tutto. Così i grandi classici potevano circolare a patto di essere eseguiti da orchestre italiane, per carità di Dio, e con titoli italiani. Ecco perché St. Louis Blues diventò Tristezze di San Luigi. Fantastico, secondo me. Forse è più bello il titolo dell'originale. I miei, che erano molto giovani e dunque curiosi, appassionati di musica e ghiotti di novità, in barba alla polizia riuscivano a procurarsi dischi o spartiti di musica americana. La decifravano e poi la suonavano in salotto. veramente sovversivi. In questo modo sono stato nutrito di jazz di America fin dall'infanzia. E ora, a parte gli scherzi, effettivamente insomma, non stupisce tutto ciò, perché c'è un qualcosa di jazzato, ovviamente, swingato e quant'altro nella musica di Paolo Conte, e anche qualcosa di un po' birichino e galeotto. E quindi basta, ve la faccio sentire, che sto parlando anche troppo. La donna d'inverno, Paolo Conte. Non vi ho detto che è un live questo. Live all'Arena di Verona del 2005. Sì, d'inverno è meglio, la donna è tutta più segreta e sola, tutta più morbida e pelosa e bianca afghana, algebrica e pensosa, dolce e squisita, è tutta un'altra cosa. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Quando la neve attenua ogni rumore in strada, gli autocarri non hanno più motore, e questo il tempo di lasciarsi sprofondare nel Medioevo delle sue frasi amare. Dice non vuol peccare, però si sa, lo fa. Traficando beato me sotto un fruscio di taffetà, e mi domando in fondo se mentre lei splende sul sofà d'inverno, d'inverno, non sia anche più intelligente. Sì, sì, d'inverno è meglio. Dopo è più facile dormire, andare oltre i pensieri con un libro di Lucrezio aperto fra le dita. Così è la vita, tra una vestaglia e un mare. Chi vuole andare in gita non sa, non sa, non sa. Thank you. trovo questa versione di Paolo Conte della Donna d'Inverno ancora più bella di quella originale della primora, diciamo, del 1979, perché boh, non so voi, ma a me le voci roche e vissute dal tempo piacciono un sacco. E ho avuto anche la possibilità di vederlo Paolo Conte dal vivo l'anno scorso e secondo me se la cava ancora parecchio, parecchio bene, ecco. E continuiamo però con un altro pezzo, questa volta di Nico, Winter Song, dall'album Chelsea Girls del 1967, un album che abbiamo già un pochino raccontato, perlomeno abbiamo attraversato un po' di sbieco qualche puntata fa quando parlavamo un po' di tutto ciò che ruotava intorno al Chelsea Hotel. Però effettivamente mi sono resa conto che non avevamo parlato approfonditamente di Nico, figura secondo me piuttosto interessante che merita un po' più di parole, ecco. Nico nasce a Colonia, era tedesca, come molti di voi sapranno, nell'allora Germania nazista, perché era il 16 ottobre del 1938, il giorno in cui nasce. Il padre era un soldato della Wehrmacht, prima della fine della guerra rimane ferito, riportando gravi danni cerebrali e muore in manicomio. Si circolarono poi dopo, quando Nico diventò famosa, varie storie, miti e leggende sul fatto che lui e il padre di Nico fosse morto in un lager nazista o in altre maniere, ma in realtà no, no, è morto in manicomio per questo motivo. Finita la guerra, Nico e la madre si trasferiscono a Berlino Ovest, nella zona occupata dagli americani. Nico, giovanissima, perché si parla, insomma, era appena adolescente, inizia a lavorare come sarta, diciamo, faceva piccole cose nel giro della moda, ma moda si fa per dire. E lavora come sarta per l'esercito in particolare e all'età di 15 anni viene stuprata da un sergente americano. Inizia a spostarsi, direi giustamente, gira l'Europa e diventa una modella, mentre però studia anche da attrice. Inizia a recitare in qualche film, fa una comparsa anche, una comparsa, insomma, una piccola parte anche nella Dolce Vita di Fellini, qualcuno se la ricorderà. Verso la fine del 61 ha una relazione con Alain Delon, da cui ha un figlio, Ari, che però non viene mai riconosciuto da Alain Delon. Altra cosa, insomma, che succede spesso, soprattutto in quel tempo e soprattutto in quel periodo, cioè in quel giro di persone simpatiche. Alla fine questo poveraccio figlio Ari viene adottato dalla nonna, ovvero la madre di Alain Delon. Ma vabbè. La prima performance come cantante di Nico avviene il dicembre del 1963 al Blue Angel Nightclub di New York, dove canta una sua bellissima, secondo me, versione di My Funny Valentine. Non so se l'avete mai sentita, My Funny Valentine è uno standard jazz strafamoso, eseguito un po' da tutti, una delle versioni più famose, quella di Chet Baker, però vi consiglio di andarvela a sentire anche quella di Nico, perché è veramente cupa, con la sua voce un po' roca, veramente bella. Detto ciò, Nico inizia a avere un po' di successo, moderato, diciamo, e inizia a frequentare lui, Andy Warhol, ovviamente, e la Factory, la sua fucina di freaks e personaggi, artisti vari. Entra nei Velvet Underground nel 1967, un po' sotto la spinta di Andy Warhol, in realtà pare, e pare che i Velvet Underground non fossero proprio entusiasti, almeno all'inizio di questa presenza. Infatti, del resto, ci resta veramente poco dentro i Velvet Underground, ci sta un annetto circa, giusto il tempo di registrare un disco che peraltro rimarrà abbastanza nella storia, e secondo me anche ha ragione. Ma poi lascia subito il gruppo, probabilmente appunto perché non andavano troppo d'accordo, e dopo qualche screzio, seppur no, non finita malissimo, perché con alcuni di loro comunque continua sia l'amicizia che la collaborazione, Nico decise di mollare Velvet Underground e inizia la sua carriera da solista, che dura circa 20 anni. Durante un concerto a Berlino, giusto per darvi un'idea del personaggino, parte una rissa dopo che Nico canta l'inno nazionale tedesco, compreso il verso tagliato dopo il 45, perché evidentemente filo nazionalista. La cosa buffa è che però Nico aveva dedicato il pezzo a Andreas Bader, leader della RAF. E vabbè, personaggio appunto sui generis, diciamo. Nico era sorda da un orecchio, che insomma dovrebbe incoraggiare molti di noi che pensano di essere stonati o di non essere bravi a cantare. Ecco, insomma, si può fare delle gran cose anche sordi da un orecchio, quindi figuriamoci. Fu dipendente da eroina, come insomma si sa, per più di 15 anni e girò questa simpaticissima passione al figlio, il suddetto Ari. Che poverino, insomma, ne ha viste un po' tutte. Il tastista, cioè praticamente in realtà cosa successe? Successe che un bel giorno, mentre appunto erano il 1988 e Nico aveva appena deciso, diciamo da pochi giorni, di smettere finalmente con l'eroina, inizia una dieta a base di metadone e moto, diciamo, footing e quant'altro, e soprattutto pare gli avessero consigliato di andare parecchio in bicicletta. Nico lo fa e un bel giorno esce di casa per andare a fare un giro in bicicletta e non torna più perché ha un incidente in bicicletta, sbatte la testa, pare un incidente dovuto a un attacco cardiaco. E viene sbatte la testa, viene portata in ospedale. Il tassista che l'ha trovata pare abbia faticato parecchio prima di trovare un ospedale che l'accettasse. Fu dapprima erroneamente curata per insolazione, insomma, aveva faticato a trovarlo questo ospedale, eppure un ottimo ospedale, insomma, l'ha trovato. E in realtà si trattava di un'emorragia cerebrale e quindi Nico morì la sera del giorno seguente. Così finisce la storia di Nico, ci sarebbe ovviamente molto di più da dire e soprattutto molto di più da ascoltare, ma vi faccio sentire questo pezzo che vi ho promesso prima, Winter Song, che è un brano scritto da John Cale dei Velvet Underground, giusto per appunto chiarire che Nico non è che aveva tagliato poi del tutto i ponti con i Velvet Underground, anzi. E quindi sentiamocelo, tanto penso che molti di voi lo riconosceranno al primo ascolto, Winter Song di Nico. The snow on your eyelids that curtsy with age is freezing the stairs on tyranny's wings. The bitter is hard and warmth of your skin is diseased with familiar caresses. Withdrawing from splendor and royal decay among all their triumphs and jaded awards. The angry and blazing circus of sun blasphemes as the crown prince arises. Of paradise magic. Tend to answer passion and form with foreign rationalization. Primroses are the jewels that of pleasure that flicker with doubt. And dresses of faith that simultaneously fear to advance and demand to be recognized. Flow through hollow green faces of caricatures, resentment etched out of the tongue. Bradington sphinxes asleep before birth, the classical sensitive failures. The worshipping wicked cling to the dark of your heart, lying there in wait with your angels. Moan and ravish from dawn to dusk, the avaricious young lovers. We'll be right back. Questo che avete sentito erano invece i Pixies con Winter Long, che era una, in realtà una cover di Neil Young, qualcuno forse l'avrà riconosciuta. Winter Long è un pezzo appunto di Neil Young dell'album Decade del 1977, la cover invece di Pixies del 1989 in un disco tributo interamente dedicato a Neil Young che si intitola The Bridge. Ma proseguiamo e vi faccio sentire a questo punto un pezzone, perché appunto questa scaletta è piuttosto variegata, diciamo, e finora insomma non era neanche troppo tristona, me ne dovrete dare atto abbastanza. Ecco, ora invece sì, vi do un po' una mazzata, perché parlando di inverno dobbiamo per forza lasciar fare un po' i bluesmen, in particolare il re forse dei bluesmen, Muddy Waters. Muddy Waters che, vabbè, con questo pezzo che in realtà non è uno dei più famosi, però secondo me ugualmente molto bello, e si intitola Cold Weather Blues, quindi non il titolo almeno non ammicca espressamente, esplicitamente all'inverno in sé per sé, ma lo fa nel testo. Muddy Waters significa acque fangose, e il soprannome deriva dalla sua abitudine fin da piccolo di sguazzare nella fanga del Mississippi, quindi insomma piuttosto simbolico già da allora. La storia di questo pezzo di Cold Weather Blues è quella di un uomo che suona il suo triste blues dopo che la sua amante l'ha lasciato per andarsene a svernare al sud durante la stagione fredda. Non è dato sapere, o perlomeno non abbiamo certezze su quanto letterale o quanto metaforico sia questo blues, ma a giudicare dalle note tristi e il timbro scuro di Waters, non lo so, mi sono fatta l'idea che probabilmente questo sud solare in cui la sua amata è scappata in realtà la tratterrà ben più di una singola stagione. Del resto le cose fredde e tristi sono affascinanti, ma fino a un certo punto, e arriva un momento in cui alla fin fine si cerca decisamente di stare meglio. Questo almeno io vedo nel triste, ma neanche troppo, testo di Muddy Waters di Cold Weather Blues. Sentirete, se aguzzate l'orecchio, che dietro la chitarra di Muddy Waters, inconfondibile del resto, ce n'è un'altra, che è quella di un giovanissimo Buddy Guy. L'album da cui è tratto questo pezzo è Folk Singer del 1964 per la preziosissima Chess Records. Call my baby. You know that little girl, feel the calm. If I call my baby, hot spring water, oh yeah, boy, wouldn't help a none. I mean, wouldn't help a none. It wouldn't help a none. Oh, if time don't get no better, I'm gonna have to go. Time don't get no better. People, I'm gonna have to go. I'm going back down south. People, well, the weather sluice my clothes. Well, the weather sluice my clothes. Birds have all flown. Normalmente non amo particolarmente le cose psichedeliche né la Steve Miller Band, ma questo pezzo effettivamente Wintertime mi sembrava proprio appropriato e devo dire che mi piace anche abbastanza, ve lo devo confessare, non lo dite a nessuno. L'album è Book of Dreams del 1977. E prima di proseguire con la nostra scaletta di oggi vi dico i social Wombat che un po' di tempo che stavo trascurando e quindi vi toccano almeno oggi. Il sito da cui probabilmente vi siete collegati e quindi insomma dovreste saperlo, ma non si fa mai male a ripeterlo, wombat.noblogs.org. Il Twitter, twitter.com/radiowombatfi. La pagina Facebook, non mi riesce neanche di dirlo da quanto mi fa schifo, facebook.com/radio-wombat-firenze e la casella di posta postawombat@insiberia.net. Questi sono i nostri contatti, vi ricordiamo di usarli il più possibile per farci sapere cosa ne pensate della nostra radio, anche soltanto per suggerimenti e quant'altro. E aggiornatevi su Twitter, in realtà stiamo cercando di aggiornarlo parecchio e di mettere ogni tanto insomma gli abbocchi e i ricordi di promemoria, ecco, per le trasmissioni che stanno per andare in onda, quindi insomma seguitelo. E in particolare vi consigliamo di tenere sempre d'occhio il nostro blog, appunto wombat.noblogs.org, perché è lì che trovate tutti i podcast, tutte le registrazioni delle puntate della radio e quindi potete scaricarvele oppure ascoltarvele in streaming comodamente ovunque voi siate e qualsiasi cosa state facendo. E giusto per continuare a ottemperare ai miei impegni di brava e corretta DJ, vi leggo anche gli appuntamenti fiorentini di questa settimana natalizia. Non c'è tantissime cose perché insomma tutti sono a magnà e a fa altro, però qualcosina c'è e anzi qualcosa di che abbastanza da segnalare. Si inizia domani, giovedì 22 dicembre, alla Polveriera, aperitivo di autofinanziamento per No Borders, non meglio specificato, ma altre info cercatele sul sito della Polveriera. Venerdì 23 dicembre, domani l'altro quindi, due appuntamenti alla Polveriera, sempre Aperitrash, Benefit, spese legali, di iniziativa antagonista metropolitana. E invece al Next Emerson una lunga giornata che inizia dalle 19.30 con una cena e la presentazione della Scarceranda 2017. La Scarceranda, per chi si è perso la presentazione, c'è stata qualche giorno fa in Polveriera, e per chi si fosse distratto negli ultimi secoli, è un'agenda anticarceraria che viene curata da Radio Onda Rossa, dai nostri fratellini di Radio Onda Rossa. E quindi vi consigliamo, perché è un bellissimo progetto e anche molto interessante seguire la presentazione, le cose che hanno da raccontare e da dire, e quindi vi consiglio sia di comprare l'agenda sia di venire a ascoltare la presentazione per sentire cosa hanno da dire. Dalle 22 invece, sempre appunto dopo la presentazione, INEM, nuove esperienze eretico-musicali. INEM sono un'orchestra, si può dire, viene definita da alcuni improvvisativa mutante, suonano dal 1972 e sono tantissimi e completamente pazzi e proprio belli e interessanti. Ultimamente hanno parlato di loro pure a Battiti su Radio 3, per chi è un fan come me della programmazione culturale di Radio 3. E vi consiglio di andarvi a cercare il loro pezzo su YouTube, perché chiaramente non si trova tantissimo, ma qualcosina si trova. Cercate NEM come eravamo brutti da piccini e vi stupirete e vorrete subito venire a sentirli, anche perché ascoltarli non è abbastanza, dovete anche vederli. E Poi basta, in realtà. Ah, l'unico altro, mi stavo dimenticando, prima di Natale, perché a Natale poi ognuno si fa i cazzi suoi. La vigilia, il sabato 24 dicembre, sempre al Next Emerson. In realtà, sorprese, perché non ho ancora trovato il volantino che da qualche parte ci sarà, però sappiate che dalle 22 inizia, quindi finita la cena e i pasti e l'auti, porchette, quanto di meglio avete trovato, dovete venire a smaltire tutta la cena dei parenti sempre all'Emerson, perché la crew dei Breaker mette dischi e balla un po' tutta la sera. Quindi, se volete anche solo guardarli, perché sono belli anche solo da guardare, venite all'Emerson alle 22, la vigilia di Natale, il 24. E insomma, poi è anche una scusa per venire via da parenti, quindi insomma, che volete di più? Basta, ho fatto tutto, ho detto tutto quello che dovevo dire, e quindi possiamo, con la coscienza a posto, pulita, proseguire la scaletta di Slick Chick di oggi, dedicata all'inverno. E ovviamente non tanto, però insomma per me sì, approdiamo a David Lynch, perché David Lynch, secondo me, di atmosfere glaciali ne sa a pacchi. E questo pezzo, perché David Lynch, per chi non si fosse distratto, è anche un compositore, musicista, cantante, anche con quella sua vocetta stridula. E quindi ha fatto alcuni album, e questo pezzo è tratto dall'album del 2013, The Big Dream, e si chiama Cold Wind Blowing. Got a cold Vento freddo che fischia, di David Lynch, del 2013 appunto. E proseguiamo con i Diaframma. Diaframma per forza, perché hanno fatto un disco nel 1989, un 12 pollici trasparente per la precisione, dal titolo Gennaio, quindi non potevamo non mettere i Diaframma in mezzo. Un disco Gennaio, in cui il primo disco in cui Federico Fiumani è alla voce. Tra i fan dei Diaframma esiste spesso una chiamiamola linea di separazione anche abbastanza netta tra chi sostiene l'una o l'altra voce, ovvero quella di Miro Sassolini precedente oppure quella che venne dopo, a partire appunto da Gennaio, di Federico Fiumani. Io non so dire bene perché, ma vi devo dire che preferisco Fiumani. La sua voce è sgraziata, sì, stonata e dissonante, a volte finisce con l'essere anche pachidermica e molto spesso è proprio inappropriata. E forse è per questo che mi piace. È questione di gusti, ve lo devo dire, che non so che altro dire, però io in questa diatriba, so che eravate tutti curiosissimi e tutti aspettavate solo queste mie esternazioni, però in questa mia diatriba mi posiziono con Fiumani. E dal disco Gennaio noi ci ascoltiamo esattamente Gennaio. I soldi li spesi in assoluta allegria, quella stessa con cui li avevo guadagnati. Ci voleva del fegato per ammettere che come erano entrati così erano usciti. Per me, tu non stare in pensiero è solo un finto cuore. Nessun senso di colpa non è importante per me. Tu non stare in pensiero è solo un finto cuore. We'll be right back. senso di colpa non è importante per me. Ad uno stare in pensiero è solo un finto cuore. Nessun senso di colpa non è importante per me. Ad uno stare in pensiero è solo un finto cuore. Questa era Vashti Banihan, io spero che si legga così, non lo so, è un nome veramente difficile. Winter is Blue, l'ha detto lei, non l'ho detto io. Tratto da questo disco che è la Tonight Let's All Make Love in London, che è la colonna sonora di un omonimo documentario del 1967. Un documentario che racconta la Swing in London, termine che ho scoperto oggi, indica quella particolare atmosfera musicale, sociale, culturale, diciamo, dell'Inghilterra di fine degli anni 60. Blow Up di Antonioni e Absolute Beginners di Julian Temple, per capirsi, insomma. E vabbè, e questa era quella con il nome impronunciabile, Winter is Blue. E adesso però torniamo a più vicino a casa nostra, in Italia, in particolare a Torino, da qualche parte l'inverno si intitola il pezzo di Isci. Isci è uno di quei gruppi che insieme alla banda di Tirofisso, Orsi Lucille e tanti altri fanno parte della galassia dei Franti e della Blue Bass, che è un'etichetta che diciamo ha dato un po' in là a tutto il DIY italiano. Hanno fatto uscire un solo disco, peccato perché secondo me era proprio bello, la voce è quella di Lalli, dei Franti. Disco si intitola Sotto la pioggia del 1994, appunto per la Blue Bass. E in cui è contenuto questo pezzo di cui vi raccontavo, che è uno dei miei preferiti di sempre, lo devo ammettere, sono molto affezionata fin da quando ero pischella, e si intitola appunto, come dicevamo, Da qualche parte l'inverno. Rimaniamo a Torino per un altro pezzo, questa volta dei Frammenti, perché anche loro hanno parlato dell'inverno. Evidentemente a Torino, insomma, è una cosa che viene sentita assai, insomma, non c'è da stupirsene. Il pezzo si chiama per l'appunto Un altro inverno ed è tratto da il 10 pollici L'appeso del 1997. E trovare i dischi dei Frammenti non è assolutamente cosa facile se non l'avevate già ai vostri tempi. Vi potrei parlare di una certa cassetta demo persa tra prestiti, traslochi e giri vari a Torino e di qualcuno che ancora si mangia le mani e maledice Dio e la Madonna di quando l'ha persa. Nel 2005 l'etichetta, un'etichetta DIY, la Riot Records, decide di raccogliere tutto il materiale dei Frammenti e pubblica una, diciamo, antologia, come si dice tra le persone serie, dal titolo Let's Twist Again, Like We Did Last Summer. Frammenti dei frammenti si trovano comunque in diverse altre parti, tra cui vi consiglio un bellissimo libro di Rocco Lombardi, che che si intitola Non senza mano cattiva, dove illustra e racconta con i suoi animali il testo dell'omonimo pezzo dei frammenti, tra l'altro un bellissimo pezzo secondo me. Quindi vi consiglio sia il libro che il pezzo e in generale i frammenti, ma questo è Un altro inverno. Brutale finisce questo pezzo dei frammenti, Un altro inverno, e siamo agli ultimi due pezzi. Oggi sono estremamente puntuale, sono molto contenta di me, e il penultimo pezzo serve a immergersi ulteriormente nell'inverno, e per farlo è difficile non scegliere anche perlomeno i Sigur Rós, perché la loro musica è diciamo l'inverno stesso perenne dell'Islanda, è un qualcosa che proprio io almeno l'associo abbastanza banalmente al freddo e il gelo e tutto quanto. Ho scelto un pezzo del 2005 che chissà come si legge, Glosoli, sembra un po' abruzzese, vabbè. Comunque è un pezzo con, come tutti i video dei Sigur Rós hanno come protagonisti bambini, anche questi ci sono un sacco di bambini vestiti da una specie di esercito di altri tempi che combina un sacco di cose. Quindi vabbè, guardatevi il video perlomeno, ci sono un sacco di bei paesaggi e non solo. E Glosoli, o chissà come si dice, dei Sigur Rós. Thank you. questi erano i Sigur Rós con Gloss, dicevano dalla regia, non si devono dire le vocali forse, boh, non lo so, non mi riesce tanto. E, però finiamo in bellezza non con i Sigur Rós, ma con un altro pezzo, perché è abbastanza, boh, per me che sono un amante della musica classica, è impossibile parlare d'inverno senza farvi ascoltare Vivaldi. E quindi vi farò ascoltare uno dei quattro concerti delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi, L'inverno, appunto. Ma non vi preoccupate, non in versione integrale, non ve lo farò ascoltare tutto quanto, ma solo il primo movimento. Perché Inverno di Vivaldi, un concerto in fa minore, viene descritto dallo stesso Vivaldi in tre momenti. L'azione spietata del vento gelido, allegro. Poi c'è il secondo movimento, che in realtà è uno dei più famosi, ma non sarà quello che vi faccio sentire io, della pioggia che cade lenta sul terreno ghiacciato, adagio. E poi c'è il terzo momento, che è la serena accettazione del rigido clima invernale, allegro. Siccome io non sono per la serena accettazione, non vi faccio sentire né la terza parte né la seconda, ma vi faccio sentire solo la prima parte, quindi l'azione spietata del vento gelido, ecco, per farvela prendere bene. E, a sua volta vi faccio sentire appunto il primo movimento, quindi che è allegro non molto, e queste sono le annotazioni di Vivaldi alla partitura. Battuta 1, agghiacciato tremarta a nevi argenti. Battuta 12, orrido vento, al severo spirar d'orrido vento. Battuta 22, correre e battere li piedi per il freddo. Correr battendo i piedi ogni momento. Battuta 33, 20. Tutti, tranne il violino principale, l'unica annotazione che ha un senso musicale. Battuta 47, e per il soverchio gel battere i denti. Questo è L'inverno, primo movimento, Antonio Vivaldi. Thank you. Questo era l'ultimo pezzo in scaletta, Antonio Vivaldi con L'inverno, il primo movimento, allegro non molto. E quindi basta, vi saluto, vi do l'appuntamento a mercoledì prossimo, sempre intorno alle 9, e vi lascio con 8 Hz, quindi mi raccomando, non lasciate Radio Wombat, tanto appunto la notte è ancora lunga, è presto e quindi non ci avete nient'altro di meglio da fare, secondo me. Quindi rimanete con noi e mi raccomando anche fate caso al bando per il contest per elaborare un nuovo logo per Radio Wombat, avrete tutti i dettagli sul nostro sito e quindi andate a vedere, producete, disegnate Wombat come se non ci fosse un domani. Ciao ciao, alla prossima!